Gianco la git, Michael Mick Elbit, Mad Boys Crew, gente. In questa vita devi avere le palle quadre. Se davvero vuoi raggiungere un obiettivo, fino alla fine, finché hai respiro, finché sei vivo. Oh. Ti guardi intorno cercando un senso, chiedendoti dove porterà questo vento, gridando contro il cielo, ma nessuno risponde mai. La musica non deve dare spiegazioni, ma può spiegarti cose che normalmente non capiresti. Viviamo relazioni e non capiamo le reazioni, dovute a condizioni dentro ai soliti contesti. Passi la tua vita credendoti uno dei tanti, senti una luce su di te solo se scrivi o canti. Il treno delle possibilità ce l'hai davanti, afferralo, quello che arriva dopo è il treno dei rimpianti. Salti mortali, orari assurdi, non riesco a dormire. Chi parla poco spesso è quello che ha di più da dire. Sistema duro, ricco di alternative, come a Taranto. Lavorare o morire, paese civile dove governa il più vile, dove tra Stato e mafia c'è una differenza sottile. Tra un po' ci staccano la spina e non abbiamo le pile. Tutto tranquillo per chi guarda la TV e resta a poltrire. Sto con gli inossidabili che senza alibi fa musica per respirare, riscaldare gli animi. Real life every night con lo sclero delle notti insonni, anche in quelle buie, quelle senza sogni. Ti guardi intorno cercando un senso, chiedendoti dove porterà questo vento, gridando contro il cielo, ma nessuno risponde mai. La musica non deve dare spiegazioni, ma può spiegarti cose che normalmente non capiresti. Viviamo relazioni e non capiamo le reazioni, dovute a condizioni dentro ai soliti contesti. Ogni giorno coi pensieri, viaggi nel mio ieri, vita nel mio oggi, col futuro ambiguo ma colmo di desideri al colmo. Ora che ho sconfitto il mostro rientro in gara, nonostante il tempo che passa mi mandi in para. C'è chi vuole spegnere i tuoi sogni solo per sentirsi meglio, ma non li ascolto, m'era sogno anche da sveglio. Guardo in alto il mio maestro di flow, ora è lassù. Ferita mai guarita, penso se ci fossi tu. Genova, il luogo che amo e odio, ma se si parla di rap per me in Italia punta al podio. Quante volte ho pensato vorrei cambiare città, ma se non sento a Cocina, mi non me sento a ca. Nato con la voglia incontenibile di esprimere ogni pensiero impresso per renderlo descrivibile. Fuori da ogni regola, oltre ad ogni limite, spingendo solo il vero e non il verosimile. Ti guardi intorno cercando un senso, chiedendoti dove porterà questo vento, gridando contro il cielo, ma nessuno risponde mai. La musica non deve dare spiegazioni, ma può spiegarti cose che normalmente non capiresti. Viviamo relazioni e non capiamo le reazioni, dovute a condizioni dentro ai soliti contesti.